nuovo centro che sta passando purtroppo appunto troppo in sordina, sarà appunto un maxi centro che dovrà supportare diciamo il lavoro e la mala accoglienza che già viene fatta al Mattei, che ospiterà fino a 300 persone ed è proprio un po' la manifestazione della logica che viene diciamo espressa qua in Italia dal decreto Cutro, anche se vediamo che è una logica che viene un po' ripercorsa su varie frontiere europee, ossia appunto quello di costruire spazi che sono in teoria adibiti all'accoglienza, ma in realtà sono spazi di confinamento, maxi centro appunto super isolati dai grandi centri abitati, senza alcun tipo di infrastrutture e diciamo servizi all'integrazione, no? Che possono in qualche modo supportare le persone che arrivano a costruirsi una vita degna dove nelle società in cui arrivano, e che invece appunto mirano più che altro a nasconderli, isolarli, allontanarli diciamo dallo spazio pubblico, quindi rendere una vita ancora più difficile, sospesa, in attesa dei propri documenti, e questa è un'ulteriore forma di invisibilizzazione. Noi abbiamo avuto molto a che fare con le persone che in questo momento sono al Mattei e anche lì appunto sono isolati, seppur sempre meno rispetto alla caserma di Ozzano, però appunto da mesi aspettano la formalizzazione della richiesta di asilo. Adesso dopo le varie manifestazioni qualcosa si sta smuovendo, però per mesi sono rimasti sospesi e completamente invisibilizzati da un punto di vista amministrativo. Bene, cioè l'apertura di questi campi è la traduzione pratica, no, di questa appunto questa logica, e quindi per noi era molto importante, cioè è molto importante avere, cioè mantenere un occhio presente, perché la presenza di questi maxi centri non è scontata qui in Emilia Romagna, e se questo governo la vuol far passare come tale, cioè vuole implementare nuove strutture che hanno questa natura, noi dobbiamo dal basso in qualche modo rispondere e rendere questo lavoro diciamo più difficile in alleanza con le persone che in queste strutture verranno accolte, ecco, come stiamo facendo al Mattei. Quindi un po' l'intento era questo, in un momento in cui, come vediamo, appunto il governo propone di costruire CPR e centri diciamo di selezione extraterritoriali in Albania, come in altre zone di frontiera in Sicilia, quindi vediamo che è appunto la traduzione del confine sia nelle frontiere esterne ma anche all'interno delle nostre città, e noi dobbiamo essere vigili e presenti per denunciare quello che sta succedendo e soprattutto non lasciare da sole le persone che saranno costrette a vivere in questi luoghi. 80 persone nei prossimi giorni già dovrebbero trasferirsi, essere trasferite, per noi sarà importante continuare a monitorare, insomma non rimanere in silenzio. Ma a proposito di modelli di accoglienza, perché a tuo avviso viene smantellata quella diffusa che, come dire, è più efficace anche dal punto di vista dell'inclusione sociale? Sono ovviamente due diciamo ambiti differenti. In questo momento stiamo parlando di casse che sono in mano al governo, che ha una linea ben precisa, mentre appunto l'accoglienza diffusa, i progetti SAI sono in mano alla municipalità, insomma al comune. Detto questo, appunto il comune sicuramente fa fatica, c'è una mancanza di fondi strutturale che rende diciamo più difficile l'implementazione di quel tipo di accoglienza, anche se sforzi si potrebbero fare, no? Anche nell'immaginare la messa in comune a disposizione di spazi vuoti che appunto esistono, no? Sul territorio, che potrebbero essere utilizzati anche con questa funzione, no? Di un'accoglienza appunto più diffusa e decentralizzata. Secondo me, appunto dalla prospettiva del governo, questa volontà di smantellare quello che appunto era l'accoglienza diffusa, seppur insufficiente, e implementare invece questo modello appunto di maxi centri centralizzati, isolati, eccetera, è proprio per andare a incrementare quella pressione sociale che poi ti permette di chiamare lo stato di emergenza e agire in questa continua crisi che non fa altro che poi stigmatizzare, criminalizzare sempre di più le persone migranti e governarle in maniera più semplice, no? Per cui giustificare appunto forme detentive, repressive, sempre più violente di gestione. Quindi secondo me proprio la logica che sottende queste opere è molto chiara, no? E, insomma, se uno guarda con attenzione emerge.